This should be played at high volume. Yeah. Ha. Yeah, yeah. Desiderato in un mondo sbagliato, quasi non voluto, a quanto saputo, nato bene, cresciuto male, tornerei un po' indietro per rimediare tanti piccoli dettagli che mi hanno cambiato, tante piccole storie che mi hanno segnato. Questa è la voce di chi è emarginato, questa è la voce di chi è stato scordato, la voce di chi il mondo non lo ha vissuto, come te, che l'hai visto girare da seduto, di chi c'è stato dentro fino alla fine, senza scappare al suono di campanelline. Ogni giorno e notte continuo a pensare a come la mia vita sarebbe potuta stare se fossi uguale al mondo, se fossi un conformista, se per farmi figo facessi il finto comunista. Se mi vestissi fashion come tutti i froci che vedi in giro vantarsi di avere due noci, se mi fidanzassi con una ragazza di oggi attaccata solo al cazzo dei figli che non reggi. Oggi tutto il mondo mi sembra banale e di certo in questo non mi voglio mischiare, eppure il banale qui continua a girare e pare avere più successo di chi non vuole seguire modelli di merda proprio da non seguire. Oggi regnano incontrastati, che devo dire, se è la banalità che attira la gente, sarò io il grande che di banale non ha niente. Non seguo mode, non vesto firmato, in un negozio paciotti non mi avete mai trovato, eppure oggi la gente è così cogliona che paga per vestire firmato Corona. Sinceramente io non vi capisco, tutta sta ciattia io la attribuisco al cervello bruciato che vi ritrovate, buttate i soldi cari miei, buttate. Realtà triste in cui viviamo tutti, finti idealisti e anche finti lutti. Se si fa in fretta a parlare, ad attribuire caratteristiche errate a chi non vuole dire. E sono indesiderato in questo mondo. Io che cos'è stato fatto? Perdoni.